Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera andiamo in un luogo sempre affascinante di cui spesso ci preoccupiamo, un mito per tutti i viaggiatori, Pompei, che tra l'altro è al centro di una mostra organizzata a Modena allo spazio Mata, aperta fino al 13 aprile, la mostra del fotografo giapponese Kenzo Izu, intitolata Requiem per Pompei, curata da Chiara Dall'Olio e Daniele De Luigi, con 55 immagini scattate dal fotografo tra le rovine di Pompei, dove l'artista ha collocato anche la copia dei calchi originari rinvenuti. Questa mostra è co-promossa dal Parco Archeologico di Pompei, il cui direttore, l'archeologo Massimo Osan, ha appena pubblicato Pompei, il tempo ritrovato, le nuove scoperte. È pubblicato da Rizzoli, 446 pagine, molto ricche di immagini, 20 euro. Il libro di Osanna ci conduce tra le nuove scoperte di Pompei per farcela sentire ancora più vicina, anzi per farcela sentire contemporanea, come scrive infatti l'autore. Dallo street food ai gioielli, al gusto per i giardini, per quella natura che penetra nelle case, per quegli spazi domestici, per le fontane sulle strade, i sistemi fognari, eccetera, tutto avvicina Pompei al nostro tempo in modo impressionante. La città morta si fa d'improvviso viva e contemporanea. E a queste scoperte ci conducono i vari capitoli dedicati ai templi, all'iscrizione, alle case, al vasellame e a molti altri argomenti che ci fanno immergere nella vita quotidiana di Pompei, che a modo suo continua a essere una città viva per l'intensità degli studi e dell'attività di scavo di cui il libro ci illustra le principali scoperte. E di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera Massimo Osanna. Buonasera. Massimo Osanna, lei insiste nel suo libro sulla contemporaneità di Pompei, che si manifesta anche attraverso la fisicità dei tanti oggetti che sono stati trovati in quella città, e Ercolano naturalmente, ma qui si parla di Pompei. Ecco, in che cosa si sostanzia secondo lei questa contemporaneità? Innanzitutto dal fatto che Pompei nel contemporaneo che ha vissuto nella seconda vita, quella che si apre nel 1748 e ancora dura oggi, in fondo ha influenzato ogni generazione dal punto di vista dell'arte, dal punto di vista della letteratura, ha ispirato musicisti, viaggiatori, dunque ogni generazione ha veramente fatto frutto della scoperta di Pompei, di quello che Pompei restituiva degli oggetti per il suo proprio potere, forte potere evocatore. Quindi anche oggi Pompei continua ad ispirare, continua ad ispirare l'arte e continua ad ispirare la musica. Pensi ai Pink Floyd e al famosissimo Live at Pompei, appunto degli anni 70. L'anno scorso abbiamo fatto con Andrea Vigliani al Museo Madre, il Museo dell'Arte Contemporanea di Napoli, una mostra Pompei et Madre Materia Archeologica, dove appunto facevamo un confronto diretto fra gli artisti, l'arte contemporanea che era esposta in quel museo, gli oggetti di Pompei, per proprio, come dire, far suscitare anche i visitatori una riflessione su dei temi che sono dei temi universali e transgenerazionali su cui Pompei continua a dare un contributo. Ecco, l'altro aspetto che affronta il suo libro è quello delle nuove scoperte che sono state fatte in questi ultimissimi anni a Pompei. Per esempio c'è un capitolo dedicato agli scavi della Regio Quinta col cosiddetto vicolo dei balconi. Che cosa è emerso da questi nuovi scavi in particolare? Gli scavi sono stati straordinari per due aspetti: uno per le scoperte, che sono sempre per un archeologo una sorpresa, difficile prevedere quello che si incontrerà in uno scavo archeologico, ma poi sono stati anche incredibili per la possibilità che oggi abbiamo, scavando oggi, di documentare e comprendere. Gli ultimi grandi scavi di Pompei della fine degli anni 50 ci hanno lasciato una documentazione molto povera, qualche rapporto, qualche foto, in fondo gran parte è perduto, perché in fondo sono degli enormi sferri. Oggi, lavorando con anche nuove tecnologie, avendo la possibilità di documentare con droni, laser scanner, ricostruzioni 3D delle stratigrafie, tutto questo ci consente di elaborare una documentazione e quindi elaborare una documentazione su cui lavorare, riflettere, ricostruire il passato, e quindi le scoperte ovviamente e le novità non potevano mancare. Ma ovviamente scavando a Pompei ci si imbatte soprattutto nella vita quotidiana degli antichi, quello che altrove è difficile recuperare, negli oggetti che avevano visto, usato, prodotto, rotto, perso, e questo è un dato straordinario. E fra le grandi scoperte di questa nuova campagna io segnalo almeno appunto i mosaici della Casa di Orione, per esempio, un programma di composto da due mosaici che raffigura un mito rarissimo nell'iconografia antica, appunto quello della trasformazione in costellazione del mitico gigante appunto della mitologia greca, Orione, che è gigante bellissimo cacciatore, viene ucciso da uno scorpione, poi da Zeus è trasformato insieme allo scorpione nelle due costellazioni. E questo è un dato veramente straordinario, perché non si conoscevano altre rappresentazioni del genere, quindi aggiunge nuove iconografie e nuovi spunti di riflessione su questi motivi antichi. Descrivendo queste case, in particolare quelle da poco scoperto, lei utilizza delle espressioni moderne proprio anche per sottolineare forse questo aspetto della contemporaneità. Parla di interior design, parla di atmosfere retro. Ecco, che cosa ci dicono gli interni delle case di Pompei? Come dobbiamo leggerli? Come dobbiamo considerarli? La decorazione delle case pompeiane, come delle case del mondo antico, ma in fondo anche di quelle del nostro mondo contemporaneo, in fondo sono lo specchio della personalità del proprietario e mandano messaggi molto chiari a chi entra in quella casa o chi le vede semplicemente passando sulla strada dall'esterno, perché le case antiche avevano di solito portoni aperti che lasciavano traguardare verso l'interno, e già un colpo d'occhio doveva servire per comprendere lo status di chi lì ci abitava, il livello, il lusso. Quindi sono degli aspetti straordinari per ricostruire pezzi di biografia perdute di chi ci ha preceduto e chi ha vissuto appunto in questa città straordinaria che è Pompei. E in particolare proprio nella Casa di Orione il dato che salta agli occhi è che chi entrava allora vedeva una casa che era rimasta intatta in gran parte degli spazi visibili, soprattutto da chi entrava dall'esterno, di chi non apparteneva alla famiglia, rimasti come erano due secoli prima dell'eruzione, come erano ancora alla fine del secondo secolo avanti Cristo, questo cosiddetto primo stile pompeiano. Sono delle lastre, delle rivestimenti in stucco che imitano delle architetture in marmo, dei grandi monumenti che andavano di moda appunto nel mondo mediterraneo dell'ellenismo, quindi fra secondo secolo, inizio del primo secolo avanti Cristo, e lì è rimasto tutta questa antica decorazione che evidentemente doveva, come dire, anche comunicare un messaggio. È una famiglia antica, è una famiglia che ha delle ascendenze proprio nella Pompei più antica, pre-romana addirittura, al secondo secolo, quindi la città sannitica, e quindi probabilmente era un altro messaggio del lusso della famiglia che vi abitava. Lei scrive che quello che ci più di ogni altra cosa ci avvicina agli antichi sono i graffiti, le scritte occasionali sui muri, come lei li definisce. Perché questo fascino dei graffiti e delle epigrafi? Ma perché diventano un mezzo impressionante di contatto con una mentalità antica, con un modo di vivere antico, un modo di pensare antico. Sono dei messaggi diretti, senza mediazione, come spesso invece sono nelle fonti letterarie, quindi e ci mettono in contatto con tutte quelle persone che di solito non lasciano altre tracce nella storia, cioè la gente comune. Noi sentiamo le biografie narrate, le biografie dei grandi della storia nella letteratura, difficilmente si getta un occhio sulla vita della gente comune, invece lì viene fuori la gente comune con le passioni, con i sentimenti, con le invidie quotidiane, con anche l'approccio per esempio ad aspetti come la sessualità, che non hanno, spesso non riescono a attraversare il tempo come invece altre dimensioni del mondo antico. E quindi le iscrizioni in questo sono uno strumento straordinario per comprendere l'antico, per appunto recuperare brandelli di frammenti di queste vite che ci hanno preceduto. Lei conclude il libro parlando del grande progetto Pompei, nell'ambito del quale ovviamente rientrano questi nuovi scavi che sono stati fatti in questi ultimi anni. Possiamo dire che Pompei oggi è più sicura? Beh, sicuramente. assolutamente, il grande progetto innanzitutto prevedeva una messa in sicurezza di tutta la città, e questo è stato un successo straordinario che ovviamente non si deve all'autore del libro, in questo caso il sottoscritto, ma a un team interdisciplinare che ha lavorato, una struttura che si è affiancata alla sovrintendenza, che è quella del grande progetto, che era diretta allora da Giovanni Mistri, il generale dei carabinieri, e adesso dal generale Cipolletta, con un team di carabinieri, di tecnici, quindi un team qualificato interdisciplinare che ha lavorato insieme per l'obiettivo comune di risolvere le grandi criticità pompeiane e di salvare Pompei, e questo sicuramente si può dire è stato fatto. Grazie a Massimo Sanna, autore di Pompei, Il tempo ritrovato. Buona serata. Buona serata. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ultimi giorni per visitare a Milano l'importante mostra dedicata a Giorgio De Chirico, che è in corso a Palazzo Reale fino al 19 gennaio. La mostra è curata da Luca Massimo Barbero in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa De Chirico. Il catalogo è pubblicato da Marsilio, 368 pagine, 34 euro. Di De Chirico escono in questa occasione due volumi importanti pubblicati entrambi dalla Nave di Teseo. Il primo è l'autobiografia Memorie della mia vita, 430 pagine, 17 euro. La prima edizione di questo libro risale al 1946, alla quale fu poi aggiunta una seconda parte pubblicata nel 1962. De Chirico non racconta nel libro solo la propria vita, che è già di per sé affascinante, ma vi esprime, come ricorda Paolo Piccozza nell'introduzione, un giudizio molto severo su quel movimento moderno al quale egli stesso aveva dato un contributo fondamentale. Parla infatti Piccozza di una condanna ampiamente motivata in termini civili e artistici. E poi, in generale, ricorda Franco Cordelli, e soprattutto nelle ultime pagine di queste memorie, De Chirico esprime vanità e polemica, due sentimenti riassunte in queste righe dello stesso De Chirico. Bisogna aver potuto dipingere i quadri che io solo sono riuscito a dipingere in questa prima metà del nostro secolo. L'altro volume di De Chirico è La casa del poeta, curata da Andrea Cortellessa, sempre per la Nave di Teseo, 388 pagine, 20 euro. Le traduzioni sono dell'autore e di Vittorio Magrelli. Qui Cortellessa raccoglie integralmente l'opera poetica del pittore, che fu anche saggista e romanziere, e fra l'altro un titolo molto importante, Hebdomeros, che fu considerato un capolavoro dai surrealisti. Le poesie risalgono soprattutto, ma non esclusivamente, al periodo 1928-29, anzi queste ultime furono riscoperte da Paolo Piccozza 70 anni dopo. De Chirico si sentì scrittore dall'inizio e fu come tale apprezzato intorno agli anni 10 del Novecento, soprattutto in Francia. Qui in particolare scriverà molte di questi versi. Completano il volume degli scritti di descrizione metafisica di Parigi, dove scrive De Chirico: grande è oggi il culto di tutto ciò che è lirismo e metafisica, e ciò segna la condanna definitiva di tutta quella pittura tozza, di tutto quello sciocchezzaio letterario, di tutte quelle banalità che in Italia purtroppo continuano a vivacchiare ancora tra sbadigli e smorfie isteriche, e anche dell'America, a proposito della quale De Chirico scrive che a New York il soffio di metafisica più potente si sprigiona dall'architettura. Negli edifici, nelle case di New York, ho trovato ciò che io stesso ho sentito ed espresso in una parte della mia opera di pittore: l'omogeneità e la monumentalità armonica formata da elementi disparati ed eterogenei. Nel suo volume di memorie, De Chirico dedica parole commosse al fratello, che fu anch'egli artista, scrittore, pittore, Alberto Savinio, che definisce un uomo eccezionale che sa. Savinio era lo pseudonimo di Andrea De Chirico, minore di 3 anni rispetto a Giorgio, E giustamente quest'ultimo lamenta nelle sue memorie che per troppo tempo Alberto Savigny sia stato abbastanza dimenticato. Adesso c'è stata una riscoperta da diversi anni, gli sono state dedicate mostre, ne sono stati ripubblicati libri negli ultimi anni grazie ad Adelphi, che da poco per esempio ha riproposto Souvenir, 246 pagine, 14 euro, con tante pagine dedicate a Parigi, di cui Savigny descrive il clima e l'ambiente artistico con giudizi spesso sorprendenti. Per esempio quello sui surrealisti, il cui carattere dominante per l'autore era la puerilità, che al di là delle frontiere dell'infanzia si chiama scemenza. Un'altra mostra in corso a Palazzo Reale a Milano fino al 1 marzo è quella della collezione Tannhäuser, col catalogo curato da Megan Fontanella, per Schirà 29 euro, 128 pagine, che porta in Italia i capolavori impressionisti e post-impressionisti di una storica collezione donata al Guggenheim Museum di New York. E a proposito di impressionismo, vi segnalo il libro di John Rewald, che fu un grande storico d'arte d'origine tedesca, vissuto tra il 1912 e il 1994, La storia dell'impressionismo, tradotto da Margherita Leardi, 606 pagine, 39 euro, l'editore Johan Levi. Questo è un libro del 1946, considerato ancora oggi una pietra miliare per la conoscenza dell'impressionismo. Come ricorda infatti Flaminio Gualdoni nella prefazione, Rewald fece giustizia con questo libro di molti aspetti, per così dire, folcloristici che accompagnavano ai suoi tempi ancora il giudizio sull'impressionismo. E lo fece con un approccio particolarmente felice, che così Gualdoni riassume. Egli intende ricostruire minuziosamente quelle vicende per impregnarsi a fondo dei loro climi, dei loro aromi, del gioco umano anche collidente delle diverse personalità. Quindi non instaurando una distanza critica, ma edificando una narrazione day by day di inflessibile precisione, insieme vivida, organica anche allo scenario storico, l'età aurea parigina in cui essa si dipana. È un'operazione di auscultazione e di immedesimazione. E il volume ricchissimo di illustrazioni si rivela una miniera inesauribile e un'indispensabile fonte di conoscenza per questo movimento così popolare e caro a un pubblico larghissimo. E a questo punto, il confettino. Vi ricordo un'altra collezione che è presente in Italia in questo periodo, è la collezione Mellon. I Mellon furono dei grandissimi mecenati americani, una parte della quale collezione è esposta a Padova, a Palazzo Zabarella, fino al 1 marzo, nella mostra Van Gogh, Monet, Degas. I quadri provengono dal Virginia Museum of Fine Arts, la mostra è curata da Colin Jarger e il catalogo è di Conti tipo Color, 108 pagine, 25 euro, questo per i genitori. Ma assieme alla collezione Tannhäuser introduce il confettino, perché anche il confettino ci parla oggi di una collezione d'arte. È un libro di Candace Fleming, illustrato da Gérard Dubois, La collezione di Joy, pubblicato da Orecchia Cerbo, 15 euro, che narra la storia di un ragazzino americano fissato nel raccogliere tutto ciò che gli piaceva e a custodirlo, a conservarlo, al punto da dare vita a una incredibile collezione di oggetti che si sarebbe trasformato in un'autentica miniera ispiratrice della sua opera d'artista. Questa è infatti una storia vera che riguarda un ragazzino che sarebbe diventato un celebre artista americano, Joseph Cornell, morto nel 1972, particolarmente attento poi a coinvolgere proprio i bambini nella produzione artistica. E a proposito di mostre e luoghi espositivi, vi segnalo un museo sui generis che si è aperto a Indianapolis, nell'Indiana. Non è dedicato alle corse di automobili, ma al mito letterario del luogo, che è Kurt Vonnegut, che a Indianapolis nacque nel 1922 per morire poi nel 2007. Il Kurt Vonnegut Museum and Library è stato aperto il 9 novembre del 2019 e contiene molti ricordi del grande scrittore e dà vita anche a molte iniziative culturali in suo onore. Per onorare Vonnegut, senza sobbarcarci a un viaggio da 7.341 km, possiamo leggere i suoi racconti integralmente pubblicati da Bompiani, a cura di Jaron Klinkowitz e Dan Wakefield, tradotti da Vincenzo Mantovani, 1.438 pagine, 38 euro. Lo stile di Vonnegut, sornione e beffardo, emerge in questi racconti, nei quali egli compie un atto di autentico estremismo, come scrive Dave Eggers nella prefazione. Vonnegut è estremista perché, andando contro alle mode, scrive racconti e terrificanti. Racconti che, scrive appunto Eggers, ci dicono cos'è giusto e cos'è sbagliato, ci insegnano a vivere e al giorno d'oggi questo è l'atto di un estremista. Questi racconti sono raccolti in 8 parti: la guerra, le donne, la scienza, l'amore, l'etica del lavoro contro la fame e la fortuna, il comportamento umano, il direttore della banda e il futuro. E con questi racconti, osserva Wakefield, Vonnegut cerca di parlare direttamente con semplicità, che è un retaggio del suo giornalismo da studente e del suo primo lavoro nel settore delle relazioni pubbliche, dove la cosa più importante era guadagnarsi la fiducia del lettore. Nella sua fiction i lettori incontravano un linguaggio molto popolare che non si era mai sentito dai tempi di Mark Twain, uno stile che la fredda ragione del modernismo aveva cercato di estinguere. E di musei tradizionali e insoliti, celeberrimi o più appartati, ci parlano 22 scrittrici e scrittori in altrettanti testi apparsi sulla rivista dell'Economist 1843. In realtà all'inizio gli articoli erano 38, ma ne sono stati scelti appunto 22, sono stati raccolti in pezzi da museo, 22 collezioni straordinarie nel racconto di grandi scrittori, pubblicato da Selleri, 270 pagine, 16 euro, e curato da Maggie Ferguson, ed è tradotto da Pavlov Dog. I grandi musei presenti in questo libro sono alla fine pochi, c'è il Prado, c'è il Museum of Fine Arts di Boston, ci sono musei di grandi città, ma non quelli magari più celebri, a Parigi, a Londra, a New York, ci sono 2 musei italiani, l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e la Villa San Michele a Capri, e poi tanti altri musei meno noti, magari più periferici e non necessariamente dedicati all'arte figurativo. Per esempio a Stoccolma c'è il Museo degli Abba, sui quali tra l'altro segnalo gli spettacoli dell'Abba Show, che è in tournée in Italia in queste settimane, o quello dedicato a Sibelius a Järvenzaa, vicino al lago Tuusula in Finlandia, o altri musei letterari come il Museo Statale della Letteratura di Odessa. E in effetti nella sua introduzione l'ex direttore della Tate Gallery di Londra, Nicholas Sirota, osserva che i musei piccoli sono spesso luoghi in cui possiamo staccarci dal ritmo della vita quotidiana per esaminarci attentamente o per esplorare l'altrui visione. Esigono e consentono che si dedichi tempo alla riflessione e alla contemplazione. E prima di lasciarci, 2 appuntamenti milanesi. Al Teatro Franco Parenti va in scena fino al 19 gennaio Winston vs. Churchill, con Giuseppe Battistone, regia di Paolo Arotta, tratto dal libro Churchill, il vizio della democrazia, di Carlo Gabardini, scrittore e autore noto anche agli ascoltatori di questa radio, pubblicato da Rizzoli, 222 pagine, 18 euro. L'autore coltiva qua il mito di Churchill soprattutto per 3 ragioni. La prima, che vuole rivalutare il ruolo della politica. La seconda, una scommessa sull'Europa, quell'Europa di cui lo stesso Churchill diceva: noi speriamo di creare un'Europa libera dalla schiavitù, nella quale gli uomini saranno orgogliosi di affermare io sono europeo, come una volta si diceva civis romanus sum. La terza ragione, per ridare smalto al ruolo dei grandi maestri. E Gabardini lo fa con questo libro, a metà tra il copione e il saggio, che riesce a restituirci l'umanità e la grandezza di questo uomo di Stato, che qui fa un bilancio della sua vita politica e privata, animata sempre da una passione incomprimibile per la politica. Gli altri appuntamenti milanesi sono 3 incontri programmati il 16, il 23 e il 30 gennaio alle 17.30 alla Biblioteca Sormani intorno a Leopardi. Il 16 Leopardi e giornali milanesi con Christian Genetelli, il 23 gennaio si parlerà di Leopardi e il carattere degli italiani con Gianmarco Gaspari, e il 30 gennaio il presidente del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Angelo Stella, parlerà di Leopardi e Manzoni. E in questa occasione segnalo il mappamondo di Giacomo. Leopardi, l'antico, un filosofo indiano, il sublime del qualunque, pubblicato da Marsilio, 274 pagine, 25 euro, che è una serie di saggi su Leopardi che affrontano tra l'altro il tema del rapporto tra il poeta e l'Oriente, o per essere più precisi con la Persia e l'India originaria. Un rapporto che trovò espressione nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia. troverete qua il Leopardi poeta, ma anche il Leopardi pensatore, molto attento all'Oriente. Ma c'è anche dell'altro, per esempio il concetto del sublime, del qualunque, quello che possiamo ritrovare distillato nella poesia A Silvia. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.